Come stai? Sta minchia a inclinare la quarta col bambino dietro, ragazzi, ma che messaggi date? No, ma io di solito lo faccio con le ragazze, però vabbè, dai. Bisogna farle volare con la quarta, ma ingranando un altro tipo di cambio. La zanzara. Siamo da nevrosi, siamo affetti, spariamo dei sorrisi, degli alibi perfetti, colletti inamidati dai trascorsi assai sospetti. Siamo tutti matti, fuori ogni misura, in fondo a ogni promessa l'incertezza e la paura. Fragili ed inetti, bugiardi trasformisti, regalaci un computer se non vuoi vederci tristi. Siamo tutti matti! Intanto i matti sono quelli che hanno preso a sassate, che hanno preso d'assalto le forze dell'ordine nelle varie manifestazioni di oggi. E quelli che prendono a pretesto queste manifestazioni per sfasciare tutto, per gridare slogan orribili nei confronti del popolo ebraico. È successo anche questo a Roma. Ditemi cosa c'entra la crisi europea. Bravo. O la mancanza di opportunità per tante persone con gli insulti e gli inni alla Palestina eccetera eccetera, ma lasciamo perdere, è la solita cosa, tanto cioè, è la solita feccia che gira per tutte le manifestazioni. Dunque i matti sono quelli. Tornando alle nostre cose però, Parenzo, senti che cosa ha detto... Qui condivido l'editoriale di apertura in pieno. Ma non c'è nessun editoriale. Senti cosa ha detto invece il leghista Boso. Erminio, quello che sta rifugiato in montagna, quello che vuole gli immigrati in una... che cos'era? In un ghiacciaio, no? No, voleva prendere, sì, e anche le impronte, perché così li vediamo, siccome sono neri, il ghiacciaio è bianco, così li vediamo e li controlliamo. Erminio Boso, ancora non mi risulta espulso dalla Lega 2.0 di Maroni, eh? O no? No, ti no, risulta no. Espulso dalla Lega 2.0 di Maroni? No, assolutamente no. Non mi risulta, non mi risulta. Però, per carità, poi tutto è possibile, ci possono essere gli estremisti anche all'interno di un partito, anche all'interno di un partito come la Lega 2.0, però sentiamo cosa ha detto sulla Fornero. Caro Enzo, qual è il ministro che ti sta più simpatico di questo governo? Che so, la Fornero. La Fornero, anche tu ovviamente, stai a vincere. La Fornero, guarda, vince a mani basse. Così bene che la stringerai tanto forte finché l'è strotto. Ecco, un trattamento Sgarbi verso la Fornero no, no. Oh, a me piace quella, cosa vuoi che ti dica io? No, dico... Stringerla forte finché senti il costato che fa cracca. Ecco, per esempio... Allora, sai, là proprio è un sentimento grande nei confronti di questa donna. Avete capito bene, Erminio, Enzo Erminio Boso, credo si chiami così, per questo lo chiama Enzo il conduttore, credo. Detto Obelix. Allora, cosa dice? Cosa dice? Dice... la voglio abbracciare come diciamo noi, sì. Però fino a sentire le ossa fare crack, il costato. Come dici bene, bravo, il costato fare crack. Boso, Maroni, dove sei? Ecco, no, Maroni soprattutto. Bobo e anche la signora Votino, chiusa parentesi, sulla portavoce. Vabbè, che c'entra quella, la portavoce? C'entra. Allora? Dove siete? Bisogna dire siete. E poi, scusami, questa qui è Radio Padania, no? Da dove l'hai sì, presa? Sì, certo, beh, solito. Ma allora abbiamo il tono, hai sentito l'intervista incalzante del nostro solito amico? Quello è il solito amico? No, quello non lì, lo so, adesso non cominciare. Sì, l'ho riconosciuto dalla voce. Pellegrin, dici, Pellegrin. Come si chiama? Pellegrin. Sono sicuro. No, magari non è lui, non lo so. Sì. Vabbè, sì. Ma che doveva fare? Ha lasciato parlare, spesso lo facciamo anche Scusami, noi. Scusami, Erminio, qual è la tua valutazione sulla Fornero? Domanda incalzante di Radio Padania. Allora, a proposito di Lega, il signor Mazzatorta, ma uno poi, scusa, ma qualche volta il cognome è anche indicativo, perché un Mazzatorta? Uno si chiama Bastoni, un altro Mazzatorta. Un altro Erminio Boso, detto Obelix, vabbè comunque, Mazzatorta. chiediamo la reclusione a un anno per i giornalisti. Devo dire che qui, vabbè, si potrebbe anche discutere, è un extrema ratio, eh? È un extrema ratio. Tu sei anche d'accordo, quindi. Ma io in parte sono d'accordo nel non follia. Non mi piacciono le caste. Se uno fa una cosa brutta, una cosa brutta può essere anche scrivere qualcosa. Si può prevedere proprio in extrema ratio se uno reitera, se uno è veramente sì, un ma in Russia, nella Russia di Putin, certo. Vabbè, ma tu sei sempre il politically correct. No, vabbè. Nella Russia di Putin c'è il carcere per i giornalisti. Mazza torta. La diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato, che è l'ipotesi più grave, più infamante, che lede maggiormente l'onorabilità di una persona, deve prevedere la reclusione. Noi chiediamo che almeno venga inserita la reclusione fino a un anno. Vabbè, Sallusti dice in Parlamento vigliacchi. In Parlamento ci sono dei vigliacchi, anche nello stesso PDL, spesso erano impresentabili e li ho difesi. Comunque, no, ma non solo. A me dispiace dover dar ragione a Sallusti, ma nel suo editoriale di oggi ricorda fatti precisi che nel corso della diretta, se vuoi oggi ricorderemo, di deputati che si sono salvati, quella sì è la casta, a fronte di condanne. Quindi loro in galera non ci vanno, però ci sbattono i giornalisti. Vabbè. Non mi appassiona questa vicenda. Vabbè. Purtroppo conosco la classe politica in generale e questa in particolare. Non mi aspettavo una cosa così vigliacca, nel senso che il Parlamento è sovrano, il Senato è sovrano, le sue decisioni vanno rispettate, però devono avere il coraggio di alzare la mano e votare quello in cui pensano e credono. Qualcuno già parla di Italia dei videopoker a proposito del signor Maruccio. Noi vogliamo ricordare Maruccio in prigione, non vogliamo infierire, per carità, e quando si presentò per le elezioni regionali all'epoca di Marrazzo, credo, ecco costui, oppure dopo, ma insomma non ha importanza, ecco costui. Sono Vincenzo Maruccio, 31 anni e origini calabresi. Sono nato a Vibo Valentia il 18 agosto del 1978. Matti, siamo tutti matti, urliamoci, insultiamo da nevrosi, siamo affetti, spariamo dei sorrisi, degli alibi perfetti, colletti inamidati dai trascorsi assai sospetti, siamo tutti matti. Io non so se questa cosa del formaglione, della formaggiacca, la forgiacca anzi, della formaglietta, appassioni qualcuno. Cioè, Formigoni che per... come strumento, insomma, di propaganda, di diffusione del messaggio, insomma, si è inventato questa cosa di dare un maglione disegnato e costruito per lui ai suoi a chi lo segue su Twitter. Mi piace questa cosa? Quello che ha disegnato lui è il maglione che lui stesso ha disegnato. Ha annunciato adesso che all'80 millesimo di follower regalerà una forgiacca arancione. Vabbè, se vuoi può usare per pulire i vetri, le finestre. Metto in palio questa forgiacca e la vincerà l'80 millesimo for Twitterone. Di qua, presidente. For Twitterone, bellissima intervista di Pierluigi Bersani a Fabio Volo. E poi dice che non si possono dire le parolacce, o comunque non si possono utilizzare certe parole, sentite. Poi leggo che sei nato a Bettola. Ora non voglio mancare di rispetto, io non so neanche dov'è Bettola, ma il nome non suona proprio. E dove mi proponi di essere nato? Io direi sempre Trepalle, perché fa per un leader politico Trepalle spacca, però vogliamo dire due maroni. È buono, dai, Trepalle. Sì, sì. Dai, scrivo Trepalle, Trepalle. Siamo tutti morti! Sentite quest'altra. Io sono nato, sono nato alle 6 di mattina. Allora facciamo 28, dai, facciamo 28. Anche per 6 ore. Facciamo 28. Avete sentito il cazzo? Sì. Ancora, Bersani. Negli ultimi anni viaggi meglio. No, ho migliorato. Hai cambiato stilista? No, io pensavo di essere peggiorato. Penso no. Che coglione. Posso dire. Cazzo, coglione. Bersani lo dice, non è che lo dice Sgarbi, Vabbè, 800 24 00 24, il fenomeno di ieri sera, è intervenuto alla Zanzara il consigliere comunale di Vigevano del PDL, Tra poco sentiremo pure la voce. Quello della vaselina di Vendola. Quello della vaselina di Vendola, quell'imbecille là che non si è nemmeno scusato, ma sentiamolo anzi, va, sentiamo. Ma io non stavo dicendo niente contro l'omosessuale. No, no, Vendola, assolutamente. Vendola, secondo me, è una persona viscida, non fa la politica in modo limpido e quindi per me è una persona viscida, come molti altri. È finita qui, punto. Poi dice di essere aggredito via Facebook dagli omosessuali. Comunque si candida alle primarie del PDL, dice. Si candida anche Alfonso Luigi Marra, buonasera. Buonasera. Avvocato Marra, ma che fa? Ma ecco. Che fa, avvocato Marra? Evviva. Avvocato sì, Marra. Sì. Ma sì, sì, ma lei è conosciuto più che altro per ingaggiare grandi star per le sue battaglie, la signora Tommasi. E mi dispiace, perché io dovrei essere conosciuto più per le mie tesi scientifiche, invece no. Che pubblico dal 1985. Poi no. Chi non le sa leggere, che posso che fare? Ho capito, signor Marra, però lei, per fare conoscere queste sue meravigliose... Poi mi può chiamare anche onorevole, visto che ci chiamate tutti, insomma... Vabbè, onorevole Marra, lei è stato perché è stato per carità, è stato al Parlamento Europeo, non lo sai, Parenzo? Già, al Parlamento Europeo nel 94 con Forza Italia. Beh, diciamo che non ha lasciato il segno per quanto mi riguarda. Comunque questo per carità, onorevole. Tu, caro, io sono stato coordinatore della Commissione istituzionale. Pure. Ho scritto un documento per la riforma istituzionale europea che si trova a leggere. Minchino di fronte a tanta nomenclatura. È meglio che ti inchini, sai? Finché sarà Tommasio o altre cose così. Ecco. E il problema è che quando non si riesce a far leggere le cose difficili, sì. Si cerca. Però scusi, guarda, Marra mio, onorevole Marra, lei per me e per milioni di italiani che sono in macchina bloccati sull'autostrada, lei è quello che fece mostrare il sedere della signora Tommasi davanti a un banco. Ma lei si inganna, lei si inganna. Io sono per questi milioni di italiani l'autore della storia di Giovanna e Margherita, che è un libro sul tema del modo di formazione del pensiero. Vabbè. Poi lei è un avversario politico perché è notoriamente un uomo di sinistra, quindi mi aspetto di tutto. Le zanzare di casa mia. Vogliamo fare l'ennesima punturina alla signora Biancofiore, Parenzo? L'ennesima punturina? Sì. Sì, dai, dai, una Biancofiore al giorno toglie la depressione di torno. Bravo. Senti. Silvio Berlusconi questo paese qui non l'ha visto quando ci diceva che bisognava avere il sole in tasca, che i ristoranti erano pieni. Nel frattempo l'Italia si stava impoverendo. Nel frattempo l'Italia si stava impoverendo indubbiamente, a parte che purtroppo anche venendo qua stamattina c'è un giro, vedevo che alle 10 del mattino ci stavano le persone fuori al bar che prendono il cappuccino. Vorrei sapere la gente che cosa fa quell'ora, perché non lavora. Se ci fosse realmente tutta questa povertà, forse diciamo perso che il lavoro, però. Diciamo che no, stavano ad un noto bar di Roma. È difficile che l'abbiano perso il lavoro, perché se uno ha perso il lavoro non sta al bar a prendersi il cappuccino e il cornetto, che costa più o meno 5 euro. Veramente 5 euro a Roma e il cappuccino e il cornetto solo ai bar che frequenta la signora Biancofiore? Perché io di solito è 1,80 euro e 1,60 euro a Roma. Ma dove vive la signora Biancofiore? Adesso, per carità, io non sono uno di quelli, non sono un catastrofista come sai, Parenzo, però il bar e il cappuccino, signora Biancofiore! Bravo! E su, dai! L'ennesimo candidato alle primarie del PDL si chiama Alfonso Luigi Marra, già conosciuto come avvocato, inchinati, esperto di signoraggio, già europarlamentare di Forza Italia, vabbè, amico di Scilipoti, te lo ricordi insieme alla Tommasi con Scilipoti, no? Ma non c'è dubbio, io questo lo ricordo, Ha ingaggiato Rubi Rubacuori, il signor Lele Mora, ecco, Sara Tommasi, l'Arcuri. Questo è Marra, ma va bene. Sgarbi ultimamente, quanti soldi ha dato a Sgarbi, signor Marra? Nulla. Ma come nulla? Su, dai, non è così, dai. Vabbè, ma lei ingaggia le persone, Marra, non c'è niente di male, non c'è niente di male a ingaggiare le persone. Vabbè, che cosa? No, dico altri temi un po' più, no. Ma altri temi, non è che ci possiamo mettere qui a parlare del signoraggio, Marra? No, per carità, potremmo parlare delle Lei quanto è ricco, Marra? Quanto mi dica quanto è ricco. Poco, perché investo tutto in cose di divulgazione delle mie tesi. Vabbè, quanto ha di patrimonio il signor Alfonso Luigi Marra? Quanto ma ha di patrimonio? Diciamo che io sono milionario di debiti, perché da molti anni che spendo tutto quello che ho per la divulgazione delle mie teorie scientifiche, politiche, filosofiche. Che ma dice... teorie scientifiche sono mostrare un sedere davanti a un banco, ma avvocate. Ma vatta a far fottere, scusi. No, vabbè, siamo avvocato Marra, su. Non è maleducato, no? E allora poi, come dire... Queste sono persone che hanno fatto fallire il linguaggio. Però scusi un attimo, ma lei è il sublime della nostra qualità di uomo. Ho capito, ma lei perché si candida alle... Ma quello un sedere davanti al banco, ma poi sono io quello perché che si fa... candida alle primarie del PDL, lei, signor Marra? Io mi candido alle primarie del PDL perché sì. Il programma di tutti, sì. Da Grillo a Monti, sì. Passando per tutti gli altri, sinistra, eccetera, sì. Consiste nella promessa del bene, del bello, del giusto e dell'utile. Ma che vuol e dire? E tutti fanno a gara a promettere delle... E vabbè, questo... Allora? Nessuno però ci dice dove prenderà i soldi per realizzare queste... Sì, ma io voglio capire una cosa. Lei che speranze ha di fare, anzitutto di farle ste primarie, poi addirittura di vincerle, insomma, mi sembra piuttosto complicato. Secondo me non la vogliono nemmeno le PDL, lei, caro Marra. Uno che va a fare le cose con la Tommasi, per carità, detto con tutto il rispetto di chiunque, con la Tommasi col sedere di fuori, non è che poi si può candidare alle primarie del PDL. È vero che in quel partito... Poi bisognerà vedere che cosa dicono gli elettori, quindi... Vabbè, ma quanto vuole spendere per queste primarie? Che smentita clamorosa, no? Quanto vuole spendere per queste primarie? Ma secondo me non c'è veramente nulla da spendere per le primarie, perché ho molti amici che sono già messi in azione per raccogliere le firme. Le firme lei pensa di riuscire a... Le dovrei spendere per fare che cosa? Che ne so, dopo, durante le primarie, uno fa la campagna elettorale per farsi... Vabbè, poi le campagne elettorali... Chi vuole ingaggiare questa volta? Non ho neanche idea di questa campagna elettorale. Diciamo che poi io ora mi muovo molto su internet, cose... Sì. Poi la mia è una campagna elettorale sulle proposte politiche, culturali, non, cioè non è che il divino hotel, ma non mi muovo sul piano delle aggregazioni. Avvocato onorevole. Chi è che dovrebbe ingaggiare? No, scusa. Dico all'avvocato onorevole, dico perché non ingaggio il divino hotel, ma questa volta. Il divino che? Il divino Otelma, non conosci Otelma? Il divino Otelma, il mago? Potrei ingaggiare lei, chissà. No, guardi, io non mostro il sedere davanti ai bancomat, meno caro male. Professore. Caro il mio professore avvocato onorevole. No, ecco. Io non sono professore, sono avvocato e onorevole. Proprio scusi, ma se dovesse, ma lei che incarico darebbe alla signora Tommasi? Ma io credo che Sara faccia l'attività che fa e non le darei nessun incarico. Che incarico le dovrei e che dare? Ne so, qualcuno voleva darle un incarico, lei, Scilipoti, non mi ricordo all'epoca, insomma, si è pentito. Sara, a differenza di molti altri dediti all'informazione, sì. Ha il merito di avere reso noto il termine signoraggio con qualunque mezzo, sì. Che altri invece con qualunque mezzo cercano di occultare. Secondo me, come dire, persino mostrando il sedere, quella è un'opera meritoria. Un'opera meritoria. Ed è molto invece, come dire, ed è invece un'opera assolutamente negativa quella, sì. Di occultare questi temi. No, scusi un attimo, mi dia una definizione molto veloce del signor Alfano, il segretario del partito. Ma lei è iscritto al PDL o no? No. No, e allora che si candida a fare primaria? Comunque, vabbè. Scriverò ora. Si iscriverà adesso, ma mi dia una definizione del signor Alfano, molto veloce, che dobbiamo chiudere, Marra. Ma un giovane uomo di, come dire, di ottime intenzioni, però... Sì. Credo che per poter portare avanti, sì. Cioè, il problema è quello dei soldi, dicevo prima, no? I soldi sono, diciamo, credo, per il 90% nelle mani delle banche. Ma che c'entra Alfano? C'entra Alfano perché per fare la politica bisogna fargli rispondere. Ah, lei dice non è uno che si oppone a questa satrapia non è delle non banche. Non è uno che si oppone, è che per potersi opporre a questo tipo di poteri ci vogliono delle connotazioni caratteriali. Che Alfano non ha. Bisogna avere le palle. Bisogna avere le palle. No. Vabbè. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Pure lo spray a zanzara mi son messo via. Togliti il casco e abbraccia chi protesta. Cammina al suo fianco. L'invita a fare un atto rivoluzionario, così Grillo ai poliziotti. Tipo Pasolini, insomma. Però Pasolini e Pasolini, Grillo e Grillo, Bravo. Ma quale atto rivoluzionario, ma quale rivoluzione? Soprattutto Grillo è finito, Pasolini è finito massacrato nella spiaggia di Ostia. Ma questo non c'entra però. È guerra, unitevi ai ragazzi. Grillo, guitto. La zanzara è l'imprendibile insetto. Facciamo risentire Boso però, la Lega 2.0. Boso sulla Fornero. Caro Enzo, qual è il ministro che ti sta più simpatico di questo governo? Che so, la Fornero, anche tu ovviamente stai vincendo. La Fornero, guarda, vince a mani basse. Così bene che la stringerai tanto forte finché la strotto. Ecco, un trattamento sgarbi verso la Fornero no, no. Oh, a me piace quella, cosa vuoi che ti dica io? No, dico... Stringerla forte finché senti il costato che fa cracca. Ecco, per esempio... Allora, sai, là proprio è un sentimento grande nei confronti di questa donna. Inseguita, ti ho inseguita, dalla sera alla mattina, dal soggiorno alla cucina. E noi ripetiamo che cosa a questo punto, Parenzo? Bodo! Caro Bodo, dove sei? E balli su twist, e balli su twist. Una botta al polpaccio e poi all'altro, una botta nel braccio e poi all'altro, una botta al polpaccio. La ridicola guerra sulla data delle elezioni, dice Alfano. Bersani, con questa sua difesa del voto prima delle regionali e poi per le politiche, vuole buttare 100 milioni o una cosa di questo tipo. Polemica ridicola. Vi ricordo, cari ascoltatori, che ogni partito, ogni coalizione, in questo caso, difende semplicemente il proprio orticello. Cioè, per Alfano è più conveniente, in passato non si sono fatti problemi a spendere soldi per elezioni, per anticipare delle elezioni invece di fare l'election day. Si possono trovare negli archivi mille esempi contrari. Al PDL non conviene fare le elezioni in momenti separati, perché una botta alle regionali potrebbe avere ripercussioni sulle politiche. Al PD non gliene frega niente, vuole fare giustamente le elezioni regionali più presto possibile, ma se si sono sciolti i consigli regionali, ma quando bisogna andare a votare? 6 mesi dopo? Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Sciopero europeo, studenti in piazza, frange violente scatenano il caos a Milano, Torino, Roma e in altre città, decine di feriti, arresti, grave la gente. In tutta Italia anche cortei pacifici di insegnanti e ragazzi, manifestazioni in tutta Europa contro la politica del rigore della UE, intanto 80 miliardi di tagli al bilancio. Camussi a Terni, l'austerità sta strangolando il lavoro, con Monti un anno di disastri, manifestazione a Pomigliano con gli operai Fiat. Alfano e Casini contrario al voto in febbraio in Lombardia, Lazio e Molise, meglio assieme alle politiche. Bersani, il PDL non faccia il lavoro di Napolitano. Il carcere per i giornalisti, grave passo indietro per l'Italia, il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa preoccupato dopo il voto di ieri al Senato. Esondano Tevere e Daniele, a Roma strade chiuse, traffico in tilt, in Toscana e Umbria si scava nel fango, la rabbia della popolazione che si sente abbandonata. Raid aereo israeliano su Gaza, ucciso il capo militare di Hamas, operazione chirurgica è solo l'inizio, la replica per voi ora sarà l'inferno. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. Beh, risentiamo che cosa? Risentiamo, caro Parenzo, il mitico, mitologico, inarrivabile sindaco di Salerno, Partito Democratico, e ripeto, Partito Democratico, Vincenzo De Luca, sul generale Petreus. Perché cosa ha detto De Luca? Sulla moglie detto, del generale Petreus. Sul generale Petreus. Bisognerebbe fare una sorta di comitato di salvezza per il generale Petreus, perché poveraccio, con quella moglie che si ritrova, te credo che l'ha tradita. Sentiamolo. Noi dovremmo fare un comitato per la salvezza e il sostegno di Petreus, sinceramente, perché io dopo che ho visto la fotografia della moglie, ma questo è un sant'uomo, poi ho capito perché se ne andava in giro per le vallate dell'Afghanistan a prendere talebani, ma come si fa a campare in quel modo? Il numero uno è il numero uno, risentiamo. Questo povero uomo, questo poi sta a 60 anni, appresso ai talebani, incontra quel pezzo di figliola là, è chiaro che si è commosso, il povero Petreus. Facciamo un comitato per la medaglia al valor civile a Petreus, vai. Avanti tu che io rimango, E ancora, ancora lui è il numero uno assoluto, il mio idolo. Mi sa che potrei fare 9, forse no, esagerato. È un potresti? Busto di De Luca mi sembra esagerato. Anche il busto no, di no, De Luca? No, no, busto di De Luca non lo conosce nessuno, cioè lo conoscono in Campania moltissimi. Però, insomma... Perché tu hai a casa il busto di Marchionne. Marchionne, Mussolini... Che spolveri ogni giorno, Marchionne, giusto? Mussolini, Lenin, Stalin... Lenin, Stalin, Mao, io sono fissato. Lenin, Stalin, Mao, Mussolini, Hitler, sì, ovviamente... Ma sei un malato, ce li ho tutti, ce li ho tutti. Churchill, ovvio. Beh, Churchill, e poi svariati, altri svariati. Hai una casa enorme, ma dove li metti? Quello del Berlusca vorrei farmi fare, lo sai? Eh beh, sì, ma ancora non. Beh, è una casa enorme, sì, 450 metri quadrati, una cosa. Certo, certo. Vai avanti tu, così ti guardo meglio. La Biancofiore su Cappuccino, la volete risentire? Vi volete sentire male? Volete vomitare? Volete... Comunque la notizia di oggi è un'altra, se qual mi è? Permetti. Qual è? Dimmi, mettiamo qual la è? Radio del Sole 24 Ore. Qual è? Per la prima volta Mediaset chiude in rosso. Sì. Per la prima volta della sua storia. Ma ti posso dire che non me ne frega niente? Cioè, guarda che... L'altra notizia è che l'ex del Grande Fratello Rocco Casalino scende in campo per Beppe Grillo, per esempio. Adesso, ma perché dai queste notizie? No, vabbè, è una notizia fondamentale, importantissima, scusa. Il signor Rocco Casalino. Rocco Casalino, te lo ricordi? Il signor Rocco Casalino, numero uno assoluto. Conosco benissimo Rocco Casalino. Cioè... Ma la Polverini che vuole fare ricorso sulla data delle elezioni? Sulla no, data, ecco, delle, questo, elezioni, bravo, la data delle elezioni! La data delle elezioni! Polverini! Titoli da TG3, su. Abbiamo sentito già. Che ne so, boh, manco li sento ogni tanto. Abbiamo già mandato. Biancofiore, cioè... Biancofiore, Biancofiore. Sì. Silvio Berlusconi questo paese qui non l'ha visto quando ci diceva che bisognava avere il sole in tasca, che i ristoranti erano pieni. Nel frattempo l'Italia si stava impoverendo. Nel frattempo l'Italia si stava impoverendo indubbiamente, a parte che purtroppo anche venendo qua stamattina c'è un giro, vedevo che alle 10 del mattino ci stavano le persone fuori al bar che prendono il cappuccino, vorrei sapere la gente che cosa fa quell'ora, perché non lavora, se ci fosse realmente tutta questa povertà. Forse diciamo era che il lavoro, però. Diciamo che no, stavano ad un noto bar di Roma, è difficile che l'abbiano perso il lavoro, perché se uno ha perso il lavoro non sta al bar a prendersi il cappuccino e il cornetto che costa più o meno 5 euro. Su Twitter la mitica Rossella Brescia dice che ha molta voglia di vincere la Forgiacca. Tu hai voglia di vincere la Forgiacca, Parenzo? Che non è peraltro da donna, ma è da uomo. La Forgiacca. Guarda, c'ho già, arancione. Ho già tanti problemi. Sì. Se dovessi per caso vincere pure la Forgiacca, sì, ti dico, fammi internare. Ma chi è che ha vinto la Forsciarpa? La Collevecchio? Una tale che si chiama Collevecchio? Sentiamola. Ma perché sta svendendo? Perché sta regalando tutto? Ma è una grande operazione di comunicazione. Ma tu non hai capito nulla, allora. Ah, allora la vera grande... domanda è questa. È una, cosa, è una cosa che sputtana Formigoni o che gli porta voti? Guarda, io... Ormai non è che gli servono moltissimi voti, comunque. Con grande rispetto rispetto a questa grande operazione che tu chiami di comunicazione, sì, basterebbe, sì, che l'ex governatore della Lombardia Formigoni rispondesse sulle vacanze. Oddio, ancora sei rimasto antico, sei rimasto antico, sei rimasto indietro. Ma comunque, in corso, comunque guardi, diamo un consiglio alla signora Brescia, la signora Rossella Brescia, conduttrice di RDS, bravissima, eccetera eccetera, e basta stare lì pronti quando scatta il 79.995, blocchiamo tutto noi e la raccomandiamo, certo, con le nostre conoscenze al signor Formigoni, non si preoccupi. La Forsciarpa ruggisce tutta la notte. A te ho pensato di regalare una Forsciarpa. Questa Forsciarpa è stata acquistata personalmente da me e l'ho chiamata la Forsciarpa La Celeste, La Celeste. Questa signora è una blogger, insomma una attivista del sito del Fatto Quotidiano, si chiama Collevecchio, che poi gli fa la solita domanda: perché non ti dimetti? Ma in realtà Formigoni è praticamente dimesso. Comunque, perché non regala il costume da bagno con cui si bagnava nelle acque e questa è buona, è un buon suggerimento. Regalo o metto all'asta per beneficenza, sì, il costume da bagno che utilizzava nelle vacanze con Dacò, quello dovrebbe regalare. Bravo, questa è una buona idea. Quello dovrebbe regalare. Ci sono altre domande, Barbara? Sì, ti volevo chiedere un'altra cosa, Migoni. Quando ti dimetti? Io non mi dimetto mai. Si sono dimessi, si sono dimessi i consiglieri. Sono una psicologa, in psicologia si dice che certi meccanismi si chiamano resistenze. Qual è la tua resistenza, no? Qual è questo blocco psicologico che ti impedisce di abbandonare lo scranno celestiale? No, no, non c'è nessuno blocco psicologico, io non occupo lo scranno. Ma che qualche volta mi viene di dare ragione a Formigoni, quando ci sono certe critiche e certe persone. Gerani, mettiamo gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Cioè, fatemi capire, sostanzialmente Beppe Grillo che cosa fa? Nel suo post, chiamiamolo così, nel suo scritto di oggi, che ormai tutti noi siamo lì, no? A compulsare. Invita poliziotti e giovani ad allearsi per picchiare quelli della casta. Questa è la sostanza, no? Beh, sì. C'è in omaggio l'astronauta Gagarin. Sgarbi, Di Pietro in galera, non presidente della Repubblica. Vittorio. Presidente della Repubblica Veronesi. Veronesi. Poi, o Presidente della Repubblica, in alternativa Veronesi, Riccardo Muti. Okay. Mai Di Pietro. Mai Di Pietro, Pietro in galera. In galera. In galera. In galera. Come diceva Totò. Allora, dacci... No, Di Pietro ha arrestato persone per 20.000 euro. Adesso ne amministra come soldi suoi 100 milioni. No, in galera lui. Ma non era malato, non aveva il braccio. Davvero non lo capisco, Vittorio. Cioè, gira con sto braccio rotto. Adesso lo vedremo anche alla prova del cuoco. Ad arrabbiarsi con un maialino al latte che mentre lo cucina. Sei un cretino, maialino! Sei un cretino! Intanto cucina. Perché? Intanto Bocchino, futuro e libertà per Italia. Interdire Sallusti dalla professione per mesi. A me che Sallusti vada in carcere non fa piacere. Io preferisco che a Sallusti, anziché 14 mesi di carcere, gli diano 28 mesi di interdizione dalla professione. Perché almeno per 28 mesi stiamo tranquilli. Sì. Cioè, voglio dire, quella è la vera pena per chi commette un reato del genere. Ceausescu! Ciao, io esco, dove vai? Vado a prendere la Pravda, c'è in omaggio il telefilm di... E poi in carcere diventa vittima. C'è in omaggio lo stregone Rasputin. Che va in carcere, a che serve? Serve alla collettività? No, perché ha un costo pure. E Padre Canere già son pieni. Dopodiché divento una vittima, comincia a scrivere dal carcere e diventa, fa vendere più copie al suo giornale. Lettere dal carcere. Riesce, le lettere dal carcere. Male, insomma, lettere dal carcere. Diventa anche peggio. Invece se uno lo interdice, anziché 14 mesi di carcere, 28 mesi dalla professione, non puoi andare in TV a fare l'opinionista, non puoi scrivere, non puoi prendere lo stipendio da giornalista, beh, certo. Quella è una pena e la prossima volta vedrà che la diffamazione non la fa. Sofia, portami via, non voglio più mangiare pane gulag. Va bene, 800 24 00 24, l'ingresso in trasmissione lo fa Fabiano da Bologna. Buonasera. Bello, pronto? Fabiano, dica. Buonasera, salve. Allora, niente, stavo guardando l'assalto che hanno fatto i manifestanti della CGIL contro la CISL a Bologna. Sì, beh, non erano manifestanti della CGIL probabilmente, l'assalto addirittura, non credo, spero che non l'abbiano fatto... Spero che non l'abbiano fatto militanti della CGIL. A Bologna cosa... Vabbè, saranno stati semplicemente dei criminali, spero che non siano della CGIL. No, no, infatti, da eliminarli subito, nel senso arrestarli tutti in galera. Ma niente, io volevo praticamente, senti, quando c'è la radio, parlavate di Beppe Grillo. Sì. Che non ho ben capito adesso esattamente cos'è che avrebbe detto, però non è sbagliato il fatto di dire ai poliziotti niente di casco e gridatevi a noi, no? Mm. No, è una stronzata. Perché? È semplicemente una stronzata. Perché una stronzata? Perché una stronzata? Cosa significa? La polizia sta lì per cercare di arginare i violenti. Va bene, i violenti. Basta, però, appunto. Fatte quel caso lì, i manifestanti sono andati in piazza Santo Stefano, tutti belli pacifici, belli tranquilli, la polizia non c'era nemmeno. Quindi vuol dire che... Cioè, io capisco che sono giuste fare le cose così, però non è che per colpa di quei 100, perché tanto li hanno davanti da ore quei 100, se li vogliono emarginare, li possono emarginare la stessa polizia. Non che devi andare a picchiare anche i ragazzini che magari... Ma quello è un altro discorso. Se ci sono stati degli eccessi, se ci sono stati... Che non sa neanche il perché. Guardi, se ci sono stati degli eccessi, evidentemente vanno puniti. Il punto non è questo. Adesso stiamo parlando di un'altra cosa. Grillo scrive: polizia, chi stai difendendo? Chi è colui che colpisce a terra? Un ragazzo, uno studente, un operaio? È quello il tuo compito? Ne sei certo? Non ti ho mai visto colpire un politico corrotto, un mafioso, un colluso con la stessa violenza. Beh, sì, non c'entra nulla, però non è che uno va là ma e colpisce. Ma non è neanche Pasolini. Ti ho visto invece scortare al supermercato una senatrice, la Finocchiaro, sfrecciare in moto affiancata da auto blu nel traffico, a protezione di condannati in giacca e cravatta, di cosiddetti onorevoli, dei responsabili dello sfascio totale, che invece di occuparsi dello Stato si trastullano con la nuova legge elettorale per salvarsi il culo e passano le serate nei talk show. Di improbabili leader a cui non affideresti neppure la gestione di un condominio, che partecipano a grotteschi confronti televisivi per le primarie. Loro non tengono vergogna, tu forse sì, lo spero, soldato blu. Tu hai il dovere di proteggere i cittadini, non il potere. Qualche giorno fa Grillo aveva detto: per noi votano anche poliziotti e carabinieri, perché si sono stufati di portare i politici dalle mignotte e nei talk show, eccetera. Beh, è esattamente il contrario di quello che diceva invece Pasolini dopo Valle Giulia. Vabbè, ma perché certo, Pasolini, ma che invece c'entra? Diceva, no, perché si è fatto il paragone con Pasolini. Sì. Pasolini invece diceva agli studenti: guarda che gli operai, guarda che i poliziotti sono i veri proletari. Questo Pirlotto miliardario, arruffa popolo, comico prestato alla politica, invece non ha nulla a che vedere con Pasolini e dice delle minchiate pazzesche. Polizia, chi stai difendendo? Ma come dire? La legalità, il diritto stanno difendendo. Alberto da Milano, buonasera. Pagliaccio. Buonasera, Cruciani. Dica. Volevo intervenire sull'argomento, se ne parlava ieri, non so se l'avete toccato anche questa sera, Maruccio che si è fregato i soldi dell'IDV per giocare al videopoker. Costui. Abbiamo detto. Allora? Ecco, no, dicevo che secondo così me... Così si definiva in un video, costui. Così si presentava. Vabbè, Alberto, dica su. No, dico che non sono d'accordo col fatto che dobbiamo arrabbiarci perché sono soldi nostri, dei contribuenti. Sono soldi dei partiti. E in questo momento i soldi dei partiti non sono soldi di nessuno. Sì, ma questo chi è che lo sostiene? Scusi, non ho capito. Lo dico io, dico io. Ma dice lei che sono soldi. A lei hanno fregato i soldi e lei è pure contento? No, guarda, li hanno fregati a lei. Fregato... Hanno fregati a lei. Certo, ma non c'è dubbio. Infatti io sono incazzato. La differenza è che io sono incazzato e lei invece è contento. Ma io sono, no, non sono, sono oltre ormai. Serve una ah, lei è oltre, partiti. Benissimo, è oltre. Vabbè. Vada oltre. Se lei non è arrabbiato perché qualcuno le prende i soldi, le sfila i soldi dal portafoglio e se li va a giocare a videopoker, sono affari suoi. Ma i soldi già sono là, già se li giocano comunque. No, o ho capito, ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Che vuol dire? Che bisogna fare una legge, bisogna mettere i partiti in condizioni di essere. L'unica legge da fare è cancellare il finanziamento pubblico alla politica. Grazie Alberto. Paolo da Venezia, buonasera. Buonasera. Dica. Volevo dire qualcosa al buon Parenzo, che mi complimento perché lui non imita più il sindaco professor Massimo Cacciari. Dopodiché sono convinto che lui da buon padovano non conosce la poppa dalla prua. E poi volevo dire Crociani che lui può andare a fare le pugnette ai cani. Beh, simpatica questa cosa. Che cos'è che dovrei fare, scusi signor Paolo? Andare a fare, anche se da signor, andare a fare le pugnette ai cani. Ma che vuol dire, scusi? Cosa in vuol dire? Sì, ma no, ma l'ho capito, lo so, ma c'è un senso figurato. Allora ma ci dovrei andare, come dire, in maniera concreta oppure è una metafora? È un modo di mandare in cacciara quello che voi mandate in cacciara. Tutto là. Vabbè, Paolo. No, va bene. È sempre stato così o col tempo è peggiorato? Esatto. No, Parenzo Padoan, non te sai neanche dove che sei, è a poppa dalla prua, non sta a dire... Cioè la poppa dalla prua, no, lei dice sì, che c'è un'ambiguità sessuale in Parenzo, cioè non si sa bene. No. E che significa no, la poppa dalla prua? Lui non riconosce davanti al dietro della barca. Quindi, cioè è a voile a vapeur, lei dice. O no? Rida pure. Mi dispiace che ha avuto in quest'ultimo periodo un progressivo, no? Sì, comunque si potrà e dov'è il problema? Io sono sufficientemente vecchio? No, ma non è una questione di vecchiaia, sa. non è questione di vecchiaia. A Padova sei abituato alle sirene? Quindi che problema hai? Suona Paolo, la vengono a prendere, non si preoccupi. Guarda che non è la quarta, non è come quando c'è la quarta. Te lavi i maroni, vero, Parenzo? La vengono a prendere, Paolo, non si preoccupi. Non scappa lei, Paolo, arrivano due signori in bianco. Arrivano due signori in bianco. Basta qualche bella seratina. Rida. Roberto, provincia di Pordenone. Mamma mia. Sì, buonasera. Vada. Senta, sarò veloce. Io volevo semplicemente dire che quello che lei accennava a Grillo, personalmente sono assolutamente d'accordo. Se lei ha avuto modo di vedere qualche video che ho visto così velocemente in televisione, e a parte la polizia menava anche dei ragazzini. Ma è sbagliato se hanno menato dei ragazzini senza motivo? Dipende, se un ragazzino ti ha tirato addosso, ti ha sparato una molotov addosso, può darsi pure che una carica ci sta, a prescindere dall'età. Non è che uno chiede la carta d'identità, scusi, lei ha 17 anni, lei ha 16 anni, allora non la posso caricare. Ma che vuol dire, Roberto? Bisogna vedere le circostanze. Se uno è a terra e l'altro ha infierito, ovviamente quello non va bene. Quello non va bene, no. Comunque, a parte il fatto che alcuni manifestanti dicevano che volevano arrivare fino vicini al Palazzo del Potere, a Montecitorio. Ma non si può arrivare dove uno vuole. Ci sono delle regole. Sì, le regole, perché è vietato arrivare a Montecitorio. Sì, è vietato arrivare a Montecitorio. Qual è il problema? È vietato arrivare a Montecitorio. E allora? Allora non è giusto. Non è giusto. Allora uno può fare quello che vuole. Benissimo, uno vuole arrivare a Montecitorio, assaltare Montecitorio, i poliziotti, prego, accomodatevi, dai, su. Ma di che parliamo, Roberto, dai. Ma scusi, Cruciani, ma allora, se lei va in giro e parla con la gente, ecco, questo è populismo. Di solito la gente cosa dice? Bisognerebbe andare in piazza e fare tutto quello che bisognerebbe e fare. Allora? Okay? E allora? Allora diciamo che se i ragazzi, gli studenti e la gente va in piazza e va a protestare verso questa casta che lei tutte le sere penso che ne parla, allora, il risultato cos'è? Perché si avvicinano troppo, vengono poi da manganellate. Scusi, abbia pazienza, Roberto, adesso... Io sono assolutamente contrario, quando in un global vanno lì, danno fuoco alle macchine della povera gente, vanno nei negozi, danno fuoco alle o impassano di tutto e di più le vetrine, io sono assolutamente contrario, ma quando una manifestazione è fatta contro, questo governo... Scusi, però, Roberto, il punto è molto semplice, ci sono, a un certo punto la manifestazione può passare in certe strade, in altre non può passare, altrimenti diventa un inferno. Esatto. Se uno ha messo delle regole, e mette delle persone a protezione di queste zone, se uno poi vuole superare la linea rossa, chiamiamola così, se prende le manganellate, abbia pazienza. Se le prende di santa ragione le manganellate. Io non sono per niente d'accordo. Lei non è d'accordo, è pazienza. Pazienza, cosa vuole che le dica? Comunque... Vabbè, vedremo stasera poi in televisione cosa faranno. Ma guardi, gli eccessi vanno sempre condannati, quello mi pare evidente, ma è difficile in quelle situazioni, è complicato in quelle situazioni. Ovviamente se uno sta per terra e quello infierisce, è sbagliato, ma questo lo riconoscono tutti. Quando la zanzarina. E poi perché nessuno chiama per dirci che la vergogna degli slogan anti-ebraici che alcuni studenti negano in realtà, o la vergogna del poliziotto ferito, che è molto più grave, il poliziotto ferito a Torino, a Padova? Soprattutto io che ero qui a Roma e oggi ho fatto un giretto per il centro perché ci passavo. Io lo sai che l'unica cosa che mi ha dato fastidio è che sono rimasto bloccato, no? Quello lo so. Vabbè, quello però sono rimasto bloccato, è la cosa che mi ha dato enormemente fastidio. Quello ci sta, però uno manifesta pacificamente e Cruciani rimane bloccato, va bene, mi dispiace. Sì, quello perché sono sempre occasioni per aggredire la polizia in realtà. Perché gli organizzatori dei cortei non fanno nulla per emarginare queste persone? Perché? Questo è il tema. Questo è il punto. Perché? 800 24 00 24, è con noi un ritorno alla zanzara, il senatore Roberto Castelli, Lega Nord, buonasera. Bene, buonasera. Come sta? Che fine ha fatto? Ma abbastanza bene, grazie, voi? Sei un po' eclissato, bene. Che ha fatto? Ormai basta, no, politica sono, basta. Sono blindato dalla mattina alla sera a fare il mio dovere in Senato. Qui politica? Dalle 8:30 fino alle 20:30 e siamo qua. Ormai mamma mia, che lei si è un po' stufato della politica, mi dica la verità. Ma un po' sì, la verità, perché sono sfiduciato del fatto che questo governo non affronta i veri problemi, quelli che almeno a mio parere sono i veri problemi del paese. Il paese sta declinando inesorabilmente e noi non riusciamo a a far passare questo messaggio verso l'elettorato. È anche vero, Castelli, che voi prima, non è che avete fatto chissà che cosa, eh? Cioè non è che adesso tutte le colpe possono essere di questo governo. No, no, assolutamente, però io ricordo sempre che noi le riforme le abbiamo fatte e poi ci sono state sempre inesorabilmente smontate. Se vuole faccio un lungo elenco. Sì, però ho capito, però adesso non è che uno può dire... Questo è il dato del bipolarismo malato italiano, sì. Che il governo che veniva successivamente non faceva, non andava avanti, ma smontava le cose che aveva fatto il governo precedente. Adesso c'è per esempio la telenovela su alcune opere pubbliche che quando c'è un governo vengono portate avanti, poi il governo successivo le blocca, pensiamo a tutta la questione dell'alta velocità, così non si può andare avanti evidentemente. Senta, ma lei ha intenzione di ricandidarsi, Castelli? Io ogni volta glielo chiedo. No. Ah no, lei è ufficiale, lei non torna. E che farà? No, e che farà? Che cosa farà, Castelli? Diciamo che questa è una bella domanda, cosa farò? Ci sono varie opzioni, o torno a fare l'ingegnere, o realizzo il sogno di tanti vecchietti come me, cioè? Che mi prendo una barca e me ne vado in giro per il mondo in barca. Oppure? Oppure faccio, coltivo l'orto, ho varie opzioni, scrivo, ho varie opzioni, varie opzioni. Nei libri. Sicuramente non ho ancora deciso. A marzo quando finisce... Sto scrivendo un libro adesso. Però. Ma su che, scusi? Su cosa? Sulla mia esperienza della Lega, i primi miei anni in Lega, come li ho vissuti, perché voglio lasciare una testimonianza ai giovani padani. Ma come, che significa i primi anni in Lega? Cioè la sua storia politica in realtà? Dall'87 al 2001. E come lo chiama? Io, virgola, Castelli, punto esclamativo. Non lo so, non ho ancora deciso come chiamarlo. Beh, venderà un milione di copie questo libro, eh? Vabbè, non fare lo spiritoso, se dice Parenzo venderà un milione di copie, non gliene frega, ma non gliene frega niente. No, magari mille copie, spero. Hai capito? Qualcuno si accontenta anche di mille copie, Parenzo. No, per carità, io vengo a presentarlo. Allora, oggi... Che oggi per vendere un milione di copie bisogna scrivere libri porno, no? Mi pare, le sfumature di grigio, le cose... Beh, Saviano non è che scrive libri porno, Saviano? No? No, non mi dica... No, Saviano no! Non mi dica che scrive libri porno pure Saviano. Potrebbe chiudere con una bella querela la sua attività politica. Che querela, scherziamo. No, voglio dire, gli argomenti che tratta Saviano sono molto più gravi del porno, sono molto più scandalosi, non quello che scrive Castelli, lui, comunque diciamo una cosa, ufficialmente marzo-aprile chiudo la mia attività politica. Esatto. Chiudo la mia attività politica. Vabbè, chiudo la mia attività nelle istituzioni. Non mi ricandido. Nemmeno in Lombardia? No. Alle regionali in Lombardia no, eh? No. Magari come consigliere comunale, anzi sono consigliere comunale. A Lecco. Vabbè, comunque chiude con la politica di un certo tipo, insomma, questa è la realtà. Quella di alto livello. Quella di alto livello. Sento una cosa. A attaccare manifesti, fare scritte sui muri. Non credo. Bello. Non credo. Ma ha detto tre opzioni, l'orto, la vela e la... L'orto, la vela, la montagna. La montagna. Tornare a fare l'ingegnere strade davanti. E appunto, adesso già sta pensando a attaccare i manifesti un'altra volta, no? Beh, ma l'ingegnere non l'ha mai fatto, Sì, come? L'ingegnere dice che Parenzo l'ha fatto poco. Dice che non l'ha mai fatto. Non ho capito, Parenzo. No, che l'ingegnere l'hai fatto poco in vita tua, l'ingegnere l'ho fatto poco. Ma che ne sai tu? Che ne sai che l'ha fatto poco? Ma stai scherzando, l'ho fatto per 35 anni. Senta, ma le sarebbe piaciuto, non da leghista, ma da ingegnere, vedere il ponte di Messina realizzato? Da ingegnere, glielo chiedo. Come opera ingegneristica sarebbe un'opera mai realizzata, quindi... Dunque le sarebbe piaciuto, diciamo la verità. Sì, sotto questo punto di vista non esiste al mondo un'opera come quella del ponte di Messina, una campata così lunga non l'ha mai fatta nessuno. Dunque lei, insomma, se fosse stato costruito sarebbe stato contento? Come? Sarebbe stato contento se fosse stato realizzato, diciamo, no? Ufficialmente l'opera va avanti, adesso c'è stato questo stop di riflessione, questo decreto legge è stato messo dal governo. Ma lei è contento se va avanti quest'opera? Se va avanti nei presupposti finanziari in cui è stabilito, cioè che deve essere pagata dai privati e che si sostiene con la sua vita stessa, allora perché no? Perché non costerebbe allo Stato. O costerebbe. Senta, andiamo un po' alla ciccia di oggi. Allora, Sallusti la definisce, insieme ad altri leghisti, poi c'è anche una cosa solo per lei, ipocrita e vigliacco. Siete dice anche, scusi Castelli, nobile senatore leghista, sai che lei è libero solo perché il Parlamento ha negato l'autorizzazione a procedere per diffamazione quando aveva dato dello sprangatore a Diliberto? Adesso, senza entrare nel dettaglio, vero o non vero che lei sarebbe finito in galera, Non mi sembra però così, diciamo, indifferente. Mi lasci fare una piccola precisazione. Sì, gliela faccio fare dopo la pubblicità. Però, Parenzo, qual è il punto della questione? No, il punto della questione, che sottolinea Sallusti, e mi dispiace essere d'accordo con lui, è Castelli, come molti altri, in questo caso per una cosa quale la diffamazione, non è andato in carcere. Perché la Camera ha negato, questo è il fatto, l'autorizzazione a procedere. È lo stesso Castelli che però invece vuole i giornalisti in carcere. Well now, little mosquito, there must be well, some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here just the same as he put you. So I'm nature's mosquito. Siamo qui, 19.59, la Zanzara vive e combatte insieme a voi, 800 24 00 24. È tornato tra noi il senatore della Lega Roberto Castelli, che è uno di quelli che vuole in casi estremi, i giornalisti in carcere fino a un anno. È vero o no innanzitutto questa cosa, Castelli? Lei pensa che sia giusto? Io non voglio i giornalisti in carcere, soprattutto non voglio Sallusti in carcere. Voglio che chi diffama abbia delle sanzioni tali per cui la smetta di diffamare. Cioè? Voglio soprattutto difendere i diffamati. Mi lasci fare una precisazione? Sì, un attimo solo, però gliela faccio fare subito questa cosa. Se mi fa sentire la pubblicità, le canzoncine, poi mi blocca. No, le canzoncine, vabbè, questa è la trasmissione, ma non è... Io ascoltare voi o voi ascoltare... No, ma scusi però, Castelli... No, l'ascoltiamo volentieri. Io volevo, no, prima di farle spiegare questa cosa di Diliberto e la risposta a Sallusti, io volevo capire una cosa. Lei è favorevole, ha votato sì a quell'emendamento che prevede fino a un anno di carcere, certo. Sì? Sì, ho votato sì, ma se mi lasciate spiegare perché, magari... Ecco, ci spieghi adesso, no, è giusto per sapere. Va bene, grazie. Quindi io non sono né vigliacco né ipocrita, che ci ho messo la faccia. Perché ho fatto anche la dichiarazione ieri in aula, quindi sicuramente né me, né Mazzatorta, né il senatore Mura possono essere accusati di essere vigliacchi o ipocriti, perché abbiamo dichiarato apertis verbis qual è sì. il nostro parere. Dunque? Quindi facciamo le cose a viso aperto. Ma detto questo... Sì. E detta una cosa piccolissima, poi affronto il tema che è molto sì. importante, molto più importante di me e, se mi consente, anche di Sallusti, sì. non delle persone. Io non vado in galera per un motivo molto semplice, che in primo grado sono stato assolto, sì. di solito quelli che vengono assolti sì. in galera mi risulta che non ci vadano, adesso il processo è in appello, ho votato a favore, sì. prevedendo la galera anche per me stesso, come diciamo ultima analisi. Dunque, evidentemente ho votato in nome di un principio. Dunque Sallusti ha scritto anche qui una cialtroneria, ha scritto una cosa lo falsa. Dice lei, diciamo che ha scritto una cosa inesatta, mettiamola così. No, vabbè, ma dica quello capisco che pensa. Capisco che lui quell'articolo lì l'ha scritto, diciamo, credo in stato psicologico. Come, alterato? Insomma, è chiaro che era incavolato, si è capito, no? Era incavolato, però ha scritto su di me una falsità. Lo quereli? Ma figure se lo querelo per una roba del genere, non ci penso neanche. Cioè lei però... non è mai stato condannato in via definitiva per aver dato dello sprangatore a Diliberto, giusto? No, sono stato assolto in primo grado e adesso il processo pende in appello. Se l'appello e la Cassazione mi condanneranno, magari... Il giudice. Dunque non è vero che è stata negata l'autorizzazione a procedere? Ma è stata chiesta l'autorizzazione? No, è stata data, ma poi è stato fatto ricorso presso la Corte che ha annullato... la decisione del Senato, quindi il processo è andato avanti. Ah, il processo è andato avanti. Ma è stata chiesta l'autorizzazione a procedere ed è stata negata. E poi accolta. No, è stata concessa. Poi è stato fatto ricorso alla Corte Costituzionale con conflitto d'attribuzione, la Corte ha dato ragione al Tribunale, quindi una cosa molto lunga e complicata. Ha fatto stare. Cioè, il processo è in corso. Il processo è in corso, quindi sono stato assolto in primo grado e normalmente uno che è assolto di solito in galera non ci però, va almeno fino a questo adesso. L'ho capito poi, benissimo. Dunque Sallusti ha scritto una cosa falsa. Poi veniamo al caso Sallusti. È ovvio che non possiamo legiferare sotto l'urgenza sì. di Sallusti in galera, che nessuno vuole. Io qua mi sono permesso di dire molte volte, approfitto la tribuna della Zanzara per dire un'altra volta, però sì. lasciatemelo dire. Io da ministro ho affrontato un caso identico, che è stato il caso Iannuzzi. Sì. Credo saggiamente il presidente Ciampi ed io, perché allora la firma era duale, gli abbiamo dato la grazia e abbiamo risolto il problema. Sì. Oggi la firma è in mano esclusivamente al Presidente della Repubblica. Io ne approfitto ancora per lanciare un rispettoso appello al Presidente Napolitano. per dare la grazia a Saluzzi. Domani mattina adesso la grazia a Saluzzi, noi ci risolviamo questo problema, sì, e poi possiamo affrontare il tema che è importante e delicato, però non sotto l'urgenza della galera a Sallusti. Ecco, io vi ringrazio perché era quello che volevo dire, diciamo, ho capito, come concetto fondamentale. Però Castelli, stiamo operando. Benissimo, adesso perfetto. Arriviamo al, lei il al... carcere lo prevede, non è sbagliato, l'idea del carcere non è sbagliata in casi estremi, giusto? Esatto, perché? Allora, oggi il testo che noi abbiamo emendato prevedeva come pena massima 50.000 euro di sanzione. Sì. Allora, ammettiamo questo caso. Io sono un gruppo editoriale schierato. Sì. Scende in politica un personaggio che non mi piace. Sì. Lo massacro riempendolo di infamie, di calunnie, lo disintero dal punto di vista politico e pago 50.000 euro. Sembra una cosa logica. Allora, secondo lei, invece, in alcuni casi noi abbiamo lasciato al giudice la facoltà di dire... Sì. Abbiamo una deterrenza superiore, considerando che anche se... Ma ci sono alcuni casi, secondo... Mi lasci finire. Sì. Anche se il giudice commina un anno, tu in galera non ci vai, perché c'è una norma che ho fatto io, che tu puoi, fino alla Cassazione, se la pena non è superiore a 2 anni, trasformarla in sanzione pecuniaria. Ho capito, vabbè. Cioè, la galera è un'ipotesi molto remota. Molto remota. Nel caso in cui ci fosse la famosa macchina del fango, cioè io attacco pesantemente e reiteratamente una persona. Sì. Allora, quella persona. E quindi alla fine. Ma c'è qualcuno che oggi. Qualcuno va fermato. Oggi, secondo lei, chi va fermato? Oggi io non ho nomi da dire, però posso dire una cosa, che ci sono dei giornalisti che hanno fatto fortuna e hanno guadagnato un sacco di soldi sulla sistematica diffamazione di alcuni politici. Cioè, insomma, diciamo la verità, secondo lei se Travaglio va in galera, a lei non dispiace? Ma non, questo lo dice lei. No, è una domanda che le faccio. No, io non voglio, guardi, a me dispiace chiunque vada in galera. Io vorrei che... Ho capito, però secondo lei che oggi chi è che fa una... la macchina del fango qual è? Sto parlando di un caso teorico. Immaginiamo che ci sia un diffamatore che prende di mira una persona, lo diffama in continuazione, basta che paga 50.000 euro e va avanti per 5-6 anni. Scusi. Ma non è così? Lo sa che oggi che se uno picchia un cane, prende 18 mesi di galera... E se uno rovina la reputazione, un altro paga una multa di 50.000 euro secondo questa legge. Le sembra logico? No, cioè il paragone è questo? Allora io vi dico, togliamo il caso Sallusti e ragioniamo, questa è la posizione della Lega, e ragioniamo serenamente senza questo. Però Maroni ha detto che era un avvertimento, cioè ha quasi detto, vabbè, abbiamo voluto dare un avvertimento, però insomma, è un messaggio mezzo un mafioso. Un avvertimento perché? Perché riteniamo che la sola sanzione di 50.000 euro non sia adeguata alla gravità del reato. Io rovino una persona. Cioè se si rovina una persona, se una persona è rovinata è giusto anche il carcere. Prevedere il carcere. Noi abbiamo immaginato il carcere, ma è giusta una sanzione commisurata la gravità del reato. Come in Russia? Come nella Russia di Putin? Ma che c'è in Russia? Scusi, ma Parenzo, se domani io comincio a scrivere che lei va in un giardinetto pubblico a toccare le bambine e pago 30.000 euro di multa e continuo a scrivere, lei sarebbe contento. Ma alzate allora l'ammenda, no? Esatto, alzate quello. Che fatto. Allora, io vi pregherei, siccome siete giornalisti seri, di informarvi un po'. Allora, avevamo fatto la sanzione più alta, non andava bene. A parte che la rettifica, sì, è vero, la sanzione più alta non andava bene. La sanzione all'editore non andava Bastavano bene. Bastavano le regole attuali togliendo il carcere, però. Le regole attuali che ci sono togliendo il carcere. Oggi, con la legge che c'è oggi, nel caso più grave, quello per cui noi abbiamo previsto da 0 a 1 anno di carcere, è previsto minimo 1 anno, massimo 6. Questa è la legge attuale. Allora, voi prevedete massimo 1 anno, sì. Facciamo, sì, ma non è che siamo attaccati a quello, diciamo, cerchiamo di fare una legge che sia, abbia delle pene, che siano delle... Comunque, per qualcuno voi vi siete anche voluti... Quando è andato in galera in Cormarini, se lo ricorda. Sì. Qualcuno ha detto qualcosa? Sì, vabbè, ma non è che facesse giornalista di professione, Marini. Appunto, Allora, i giornalisti in un modo si diffamano e gli altri in un altro. No, ma guardi, questo io sono... questo è il vostro concetto. Ma io sono anche, guardi, no, da questo punto... se questo è il concetto di Parenzo, i giornalisti possono dire quello che vogliono e gli altri non danno. No, il concetto di Parenzo... Perché non vi siete mobilitati con Igor Marini? No, il concetto di Parenzo, no, è completamente diverso. Cioè, io vi faccio questa domanda, per favore datemi una risposta. No, ma non è allora non di Marini. Parenzo, no. È vero però che in alcuni casi la diffamazione Parenzo, è grave. Lei perché non si è mobilitato per Igor Marini? Ma io non mi mobilito né per Sallusti né per Marini. Dico che prevedere il carcere... Perché non ha detto, quando Igor Marini è andato in carcere eravamo come in Russia? Oh, mamma mia, perché chi manda i giornalisti in galera vuole un modello di informazione... Ma lì c'era la calunnia, è una cosa... Allora, i giornalisti in un modo e gli altri in un altro, questo sta sostenendo. Tutti uguali, nessuno in galera, si pagano tanti soldini. Allora perché non si è mobilitato per Igor Marini? Ma lì c'erano anche altri reati, non c'era solo la diffamazione. Igor Marini, no, era andò in galera per calunnia, perché non vi siete mobilitati? Beh, calunnia è una cosa, diffamazione a mezzo stampa è un'altra, Io la combatto. Ma il top resta sempre, cari amici della Zanzara, il sindaco di Salerno De Luca, Io ormai sono vicino al busto, Parenzo, sono vicino al busto. Addirittura. Sono vicino al busto, sì. È il numero uno assoluto, uno che dice anche a Bersani: butta sto sigaro, buttalo questo sigaro. No, insiste, come dice Totò, e insiste, l'ho trovato a Milano ancora con questo maledetto sigaro in mano, ma vede lei, lui è la negazione della comunicazione politica, non c'è niente da fare, bisogna rassegnarsi, è un uomo a misura di Turtelen. A misura di Turtelen, che peraltro non sono una specialità di Piacenza, ci ricordava qualcuno ieri, ma il top ovviamente è su Petreus, top è su Petreus perché... insomma, è uno del Partito Democratico, un sindaco importante in Campania che esprime tutto il suo, lo diciamo, tutto il suo macismo, no? Tutto il suo macismo, quando considera la moglie di Petreus un cesso, questa è la realtà, alla Massimo Fini. Sinceramente, appena ho sentito la notizia, pure io ho detto: ah, sto squinternato in generale, ma scherzi a parte, sei il capo della CIA, non ti puoi consentire delle digressioni. Poi quando ho visto la foto, santa, ma come si fa? Sembra, se ricordo un personaggio dei fumetti di qualche anno fa, Matilda, questa con il caschetto, la neucchiaria a fondo di bottiglietta, e tanti la mossa. Ma chi è poi Mafalda, non Matilda, Mafalda, esatto. Credo, Mafalda. Sembra Mafalda, infatti oggi sembra, leggevo Matilda, Mafalda. Bah. 800 24 00 24. Dov'è però Castelli? Scusi Castelli, lei dice: io non voglio Sallusti in carcere, nello stesso tempo vota una legge che prevede fino a un anno di carcere, abbastanza bizzarro adesso. Guardi, ripeto, per ragionare serenamente di questa cosa bisogna togliersi il problema Sallusti. Se Napolitano vedo che non accetta, diciamo, questo nostro accorato appello, io auspico che... Beh, adesso è passato un quarto d'ora, magari è passato un quarto d'ora, magari poi reagisce domani. L'ho detto in aula da 20 giorni fa, sì. Continuo a ripetere, ho fatto dei comunicati stampa. Sì, sì. Siccome la legge tornerà in aula la settimana prossima, io auspico che venga fatto un emendamento ad personam che consenta a Sallusti di evitare il carcere, così finalmente ci togliamo questo macigno e possiamo... Ma l'emendamento che vuol dire l'emendamento? L'emendamento potremmo scrivere un emendamento che si attaglia esattamente al caso Sallusti e scrivere che in quel caso il carcere venga evitato. Possiamo farlo tecnicamente. Cioè, lei è pronto a presentare un emendamento ad personam per salvare Sallusti dal carcere? Sono pronto o a presentarlo o a votarlo se tecnicamente qualcuno presenterà un emendamento, diciamo, dal punto di vista tecnico migliore di quello che... Ma è possibile fare l'ipocrisia assoluta. Comunque. È possibile. Ma se non ci togliamo da questo problema non ne usciamo più. Siamo perché non possiamo ragionare assoluta. Su un tema così importante, sì. Pensando che qualsiasi cosa noi legiferiamo c'è una persona che va in carcere. Però ripeto, perché il caso Iannuzzi non scoppiò? No, ma ho capito. Non scoppiò perché venne evitato. Devo anche dire un'altra cosa, nel suo fondo, Sallusti si domanda come mai Bossi non è andato in carcere, malgrado abbia diffamato. Per un motivo molto semplice, si è avvalso di provvedimenti di legge di cui avrebbe potuto avvalersi anche Sallusti, ma di cui non si è avvalso. Cioè? Ci sono dei provvedimenti che consentono di tramutare la pena in pena pecuniaria, ci sono dei provvedimenti. Saluti non ha inteso. Dunque un po' se l'è cercata. Non avvalersi di queste facoltà, e adesso ci ha messo di fronte a questo dilemma. Che un po' se l'è cercata, secondo lei, Sallusti? Cioè vuole fare la vittima, dica la verità, vuole fare la vittima o no? Io non voglio dare giudizi, perché la materia è troppo delicata e non mi sento di dare giudizi, però registro, questo è un fatto, quindi il fatto registro. Sì, che lui abbia rifiutato il risarcimento, che lui abbia rifiutato le pene alternative. No, non quello, lui poteva avvalersi, anche quando condannato, di alcuni strumenti che prevede la legislazione italiana, e lui non se ne è avvalso. E ha ragione. E non è un ipocrita. Io non sto dicendo che ha ragione o non ha ragione, questo è il caso, quindi rispondo perché Bossi non è andato in carcere. Fate una legge ad personam, gli strumenti che la legislazione fornisce, sì, e quindi ha evitato il carcere. Ma tanto Saluti, di legge ad personam non ha inteso avete... valersene, va bene. Però questo è il dato. Senta, lei lo sa l'inno d'Italia, Fratelli d'Italia, che è stato un po'... Se lo so, me l'hanno insegnato quando ero bambino 60 anni fa, certo che lo so. Anche il Nabucco. Qual è meglio? Va pensiero. Vabbè, è inutile che glielo chieda che cosa è meglio. Anche Papaveri e Papere, cioè, sono tante canzoni. Beh, ho capito, ma anche lo sa che adesso è una materia obbligatoria in classe, no? È diventata. Sì, certo, abbiamo votato noi, l'hanno votata loro la settimana scorsa, lo so perfettamente. Beh, giusto, l'Italia, siamo in Italia. O no? Sì, per carità, si può cercare di insegnare a torto collo qualunque materia, quante cose ci hanno insegnato a scuola. Ma quante cose si ricorda di quello che hanno insegnato ma a scuola? Ma scusi, ma perché negli Stati Uniti poco? Parenzo pochissimo. Poco. Ho fatto un ottimo liceo classico. Ma anche lei... Voglio dire, scusami Castelli, non ho capito perché negli Stati Uniti, paese federale, insegnano l'inno e tutti lo sanno cantare, e in Italia invece arrivate voi e dite no, l'inno no, perché l'oppressione, perché negli Stati Uniti c'è una coscienza nazionale di uno Stato federale che è ben diversa da quella che c'è in Italia. Negli Ultimi Stati Uniti fuochi. Nessuno si sente oppresso da altri stati. Non è che se vado in Ohio gli abitanti dell'Ohio pensano di essere sfruttati da quelli della California. In Italia, purtroppo, lo disse già Massimo D'Azeglio, fatta l'Italia, bisognava fare gli italiani, probabilmente non ci siamo ancora riusciti. Senta, anche lei come Bosso stringerebbe la Fornero fino a farle scrocchiare le ossa? No, assolutamente no. Esagera un po', signor Bosso. Vabbè, signor Bosso, il signor Bosso. Anche lei canterebbe in corteo Monti e Fornero al cimitero? Come è successo? Assolutamente no, quello l'abbiamo detto, è stato un cretino, lo possiamo confermare, sicuramente do un giudizio. Vabbè, quello è diverso, Fornero, certo. Assolutamente negativo. Quello è diverso. Siamo qui, 800 24 00 24, Luigi da Napoli, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera. Vada. Salve, no, volevo fare solo una battuta sulla polemica adesso di Castelli per la legge qui su Bavaglio, diciamo. Una noia pazzesca. È una noia, sì, hai ragione, però volevo solo mortale, dire che non si è messo in evidenza forse l'unico problema reale, perché alla fine Sallusti si sa che fa anche gioca a fare anche la vittima, perché ha rifiutato la grazia, ha rifiutato tutto, diciamo, fino a questo momento qui. Ma il problema è che non si è messo in evidenza è come saranno i giornalisti non famosi, tra virgolette, quelli che non possono... Saltiamo questo argomento, è veramente un argomento che mi provoca una noia sudo freddo, sono annoiato profondamente da questa roba, mi sono anche pentito di averne parlato. No, scusami, però lì ci saranno i problemi. Quello che io volevo dire era sulla questione tua con Grillo, delle dichiarazioni di Grillo. Bene, Grillo si sa che... Intanto secondo Ezio Mauro, direttore di Repubblica, Berlusconi vuole fare cadere Monti, così scrive su Twitter. Far cadere nessuno come sta combinato ora. Ma comunque, per quanto riguarda le dichiarazioni di Grillo, che come sempre sono eccessive, sicuramente non è un personaggio politico che mi sta molto simpatico, però ricordo che oggi è una manifestazione europea, il primo sciopero, diciamo, manifestazione internazionale. E c'entra perché evidentemente le condizioni, diciamo, dei cittadini normali non sono così tanto buone se scendono in piazza in centinaia di migliaia. E quindi è evidente che se i governi europei non ascoltano la voce dei loro cittadini e militarizzano le piazze. Ma che militarizzano? Le manifestazioni non servono a nulla, su dai. Ok, questo è una tua opinione. No, è la mia opinione. La mia, a me ha fatto certo. opinione. Le manifestazioni non servono a niente. A me servono ad evidenziare un dissenso che esiste. Il perché dissenso, sì. nelle stanze dei bottoni questo dissenso e questa crisi sì. che c'è non arriva. Quali sono i rimedi che sono, come dire, che vengono, che salgono dalla piazza? Quali sono le ricette che salgono dalla piazza? Quali sono queste grandi ricette? Quali guarda, sono? È la politica che deve avere ma dai, su, ma smettiamola, dai, su, sono solo pretesti, per molti sono solo pretesti per attaccare la polizia, per sfasciare tutto. Beh, allora isoliamoli, ma il dissenso c'è, centinaia di migliaia di persone. Ma il dissenso c'è sempre stato nella storia delle democrazie, dai, il dissenso degli antisistema c'è sempre stato, dai, su. Va bene, ma qua non si tratta di antisistema, qua si sta un impoverimento concreto della gente, Cruciani, purtroppo questo è un problema reale. L'impoverimento, nella crisi economica c'è l'impoverimento, d'accordo. Ma la crisi economica, purtroppo. Il Castelli che prima ha detto che non sa se prendere la barca, se scrivere un libro, purtroppo... E che deve fare? Che deve fare? Non può scendere, non può scegliere se andare in barca, lo potrebbe fare pure, ma non può scegliere. Allora c'è chi purtroppo può fare delle scelte troppo belle, perché a chi non piacerebbe andare in barca? Ho capito, ma non siamo tutti uguali, ci sono quelli ricchi, meno ricchi e tutto. C'è gente che invece deve sbattere la testa nel muro per vedere di guadagna 700 euro che senta, è la guardi, città nella sua città l'altro giorno un signore, per carità, detto con tutto rispetto, è andato dalla Fornero e si voleva tagliare le vene perché la figlia non ha lavoro, capito? A questo siamo in Italia, cioè che uno va di fronte alla Fornero pensando che la Fornero debba risolvere i suoi problemi o che si trovi lavoro grazie alla Fornero e si è tagliato e si voleva tagliare le vene perché la figlia o la nipote, non mi ricordo, non ha lavoro. Cioè, sono cose ridicole, dai, su. Sono ridicole, ma intanto se la gente arriva a questo vuol dire che la disperazione c'è. Io sì, non mi tolgo la disperazione vita, c'è. Cioè, c'è gente che si è data fuoco davanti a Montecitorio, sì, sono cose che mi sto inventando io. No, i governi a queste cose qua sono poco sensibili, purtroppo, perché comanda sì, la adesso finanza, i politici dicono che sono poco i tecnici sono poco sensibili. No, ma anche i politici, questo non no, è no, una no, adesso i politici dicono ma i tecnici sono un po' troppo algidi, sono poco sensibili ai bisogni della gente, senza raccontarci e senza dirci che fino a questo punto ci hanno portato loro, cioè a un punto di crisi, comunque a un punto di complicato dal punto di vista della crescita economica, delle opportunità, eccetera, non è che ci ha portato Monti, ci hanno portato le scelte anche dei governi precedenti, diciamola tutta. Ma è con noi, caro Parenzo, uno dei miei miti assoluti, perché uno che parla in maniera così, in maniera franca, capito Parenzo? Un grande intellettuale italiano. Un grande Fabrizio Forchega, professor Becchi, buonasera. Mi sento un po' male, ma adesso la richiamiamo, la che è meglio. Che non funziona bene. Adesso la richiamiamo. Come al solito, il numero fisso funziona peggio del numero cellulare. Becchi. Ma questo mi sembra evidente. Adesso la richiamiamo sul cellulare. Becchi. Io pensavo che tu chiamassi Tito Boeri, Luigi Zingale, Saldo Bonomi, una delle grandi firme del Sole 24 Ore, Fabrizio Forché. E invece no, Tito abbiamo... Boeri scrive su Repubblica, veramente. Comunque, Sergio da Perugia. Comunque, grandi firme, voglio dire, grandi intellettuali. Sergio da Perugia. E invece il professore, come si chiama? Becchi. Vada. Becchi. Ecco, vado. Niente, la mia voleva essere una provocazione con l'intervista che avete fatto a Marra. Sì, vada. E allora volevo chiedere al Marra, se lui ha origini sarde, saprà bene sì. che Marra significa zappa. Sì. È evidente che lui ha bisogno di usarla e di andare a zappare. Volevo solo mandarlo lì. A zappare, signor Marra. Signor Poi un'altra Marra. Cosa con Castelli, sì. sulla legge contro il Sallustri e company. Sì. L'ideale non è mandarli in galera, ma se ci sono danni, si fanno pagare i danni che hanno subito i nostri politici, se in questo caso si parla di politici. Vabbè. Questo era tutto quello che io volevo evidenziare. Va bene, grazie Sergio. Intanto Berlusconi dovrebbe aver detto, forse ha detto, se il governo non fa l'election day lo mandiamo a casa. Ma voi vi rendete conto a che livello siamo arrivati? Ma che fa, minaccia? Cioè il centrodestra, ma sì, ma dipenderà anche, uno può farlo cadere in Parlamento, sì, ma non dipende da lui. A parte che Berlusconi ormai non ha più truppe nemmeno in Parlamento. Ma in ogni caso, se il governo non fa l'election day lo mandiamo a casa. Adesso sono fissati per fare l'election day ad aprile, cioè per prolungare l'agonia delle regioni ancora per mesi. Ma le regioni sono state sciolte sciolte, sciolte. Bisogna andare a votare prima di ieri nelle regioni, lo capite o no? Che questa è una cosa ridicola, che in Italia non si riesce nemmeno più a votare. Non si riesce a votare, ci vogliono fare votare non so quando. In Lazio, in Molise e in Lombardia sono sciolte. Bisognerebbe andare a votare in un tempo velocissimo. Invece, secondo qualcuno, bisogna andare a votare ad aprile insieme alla politica. Ma perché? Per motivi tattici. Se vi parlano della questione dei soldi, vi stanno fregando, vi stanno dicendo una stupidaggine. Stanno cercando di gettare fumo negli occhi, è solo per convenienza politica. Professor Becchi, buonasera. Ma sì, io non so chi ha parlato adesso, però sono perfettamente d'accordo. Sono Cruciani, sono Cruciani. Eh? Sono Cruciani. Ah sì, ciao. Ciao, ciao. Ho sentito una parte della conversazione. Ma così, si rende conto, professor Becchi? Subito. Ma si rende conto che qui... Lo tratti come una persona normale. Ma perché? Che c'ha il professor Becchi? Non è normale, scusa. No, io non lo so, spero di esserlo. No, Parenzo, dimmi, dimmi. No, dico, uno oggi dice che è normale non è political correct, no? Perché bisogna essere anormali. Per... Cioè, gli dai quel tono come fosse un... Comunque, per carità, sì, professore, prego, ci dica come fosse uno... Ma forse è la terapia, è giusto così, prego, professore. No, no, ma per carità, è come se avessi chiamato il direttore, no? Ma avevi ragione che ha sostenuto quella tesi delle elezioni regionali. Ma qui, cioè, ci vogliono far andare a far votare soltanto quando hanno già deciso tutto che cosa fare, no? Ora il problema della legge elettorale è proprio questo, cercare di fare una legge elettorale per poter confermare il governo che abbiamo già adesso, quindi cosa servono le elezioni? Ma lei ha cominciato ormai a collaborare in maniera fissa col blog di Grillo? No, perché io sono, io ogni tanto mando qualcosa e se loro vogliono pubblicano, se no no, ma non c'è nessuna... Hai capito, Parenzo? Paolo Becchi, professore ordinario di filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova, ancora non l'hanno cacciata, professore? Guarda, forse ci stanno pensando, ma sai il problema? Ma chi ci sta pensando? Sono studenti che mi apprezzano e allora è difficile cacciare un professore... Quando hai tanti studenti che insomma dicono ma no, lasciatelo parlare. Ma scusi un attimo, perché il preside si è arrabbiato, è venuto da lei, ha detto no, qualcosa? No, assolutamente, no, devo dire che non ho avuto nessun problema, ma sai, forse non sentono neanche le cazzate che sparo, quindi... Dice? No, no, lo sanno, come non lo sanno, lo comunque sanno. Io sabato sarò in diretta da Genova, quindi venga che ci vediamo. Ma dove? Faccio una diretta per In Onda sabato da Genova. E quindi venga, professor Becchi, venga. Ma dove vengo? Che ne so io? Vabbè, poi glielo dico in privato, non è che uso la radio per dirle. Comunque, se lei mi conferma che è una persona normale, andiamo avanti dell'intervista. Andiamo pure avanti, professor Becchi. Andiamo avanti, sì. Cosa incredibile, il professor Becchi, filosofia del diritto. Ma dai, vabbè, comunque. Pubblicità, torniamo subito. Professor Paolo Becchi, uno degli antimonti in Italia, uno dei più accaniti... avversari del governo Monti, adesso si è messo a scrivere pure per il blog di Grillo, ospite in varie trasmissioni, ma lei ha il tempo pure per fare il professore universitario, professor Becchi. Vedi, caro, il mio problema è proprio questo, che io invece ti ho detto ieri che non potevo perché sennò poi c'era il Brunetta che mi veniva a controllare, dovevo controllare, ma non c'è più lui come ministro, vabbè, ma è lo stesso, è la stessa cosa, ecco. E niente, dovevo correggere delle bozze, non potevo. Oggi 8:30 di sera, dopo che ho lavorato tutto il giorno, credo che me lo consegneranno, 10 minuti di... Sì, sicuramente. Consegneranno 10 minuti di pausa, no? Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come lei, cantare. Siamo ancora qui, siamo ancora qui. Solo per disturbare. Eccoci qui. Ancora riflettevo, caro Parenzo, su questa cosa assurda della polemica sull'Election Day. Sull'Election Day. Ma ti rendi conto o no? Ti rendi conto o no? Puro tatticismo da pochi soldi, peraltro. Ma questo lo dico per tutti, cioè, perché chiunque fa della tattica sulla legge elettorale, eccetera, non vi fate fregare, non vi fate fregare. Non c'è. Quando si ragiona di queste cose, giustamente, io aggiungo giustamente, non è che c'è chi parla in nome del paese. Ognuno fa i conti pro domo sua. Lo fanno tutti per la legge elettorale, certo. Sull'Election Day, tutti allo stesso modo. Quanto ci conviene fare così, quanto non ci conviene? Ed è la stessa cosa che sta avvenendo con Berlusconi, che pare voglia fare cadere Monti, e non lo farà perché non ha le truppe per farlo, ma comunque minaccia di fare cadere Monti se non fa le elezioni regionali accorpate a quelle politiche, cioè le elezioni regionali del Lazio, della Lombardia e del Molise. Qui si deve andare a votare, quando una regione si scioglie si va a votare in tutti i paesi subito, non è che si ragiona, sì, spendiamo 100 milioni, ho sentito Alfano oggi che diceva non ci sono i soldi per le forze armate, ma perché voi gli ridavate i soldi alle forze armate? Ma dai! E poi la polizia, eccetera, ma roba incredibili. Professor Becchi, ma scusi, ma Grillo che invita i poliziotti alla rivolta, ne vogliamo parlare? Ah beh, insomma, è il minimo che poteva fare, cioè... Ma come il minimo, professor Becchi? No, fallo parlare! È il minimo che poteva fare, sentiamo. Che doveva fare di fronte a queste aggressioni, cioè quello che sta succedendo oggi nelle piazze, era prevedibile già da quest'estate, non è la solita protesta dei giovani che comincia l'università e via discorrendo, e quindi anche se stanno, protestano, occupano e con dei caschi sulla testa. Scusate, quest'estate. Ma l'ho visto quanti caschi sono e le catene. Cancellato due generazioni future. È chiaro che adesso questi protestano, e che altro dovrebbero fare? Con i caschi sulla testa. La protesta, il giorno in cui i poliziotti si dovessero unire, come dice Grillo, i poliziotti, scoppia la rivoluzione in Italia. Ma lei si auspica la rivoluzione in Italia, scusi? Ah beh, io rispetto al marciume in cui viviamo, istituzionale, ci vorrebbe una grandissima pulizia. Ma come? Una cosa di più, una totale tabula rasa. Ma come? La tabula... Farli sparire, scomparire, dileguare, annientare. Ma come? In che modo, professor Becchi? Professor Becchi, distruggere in che modo? Con le armi? Con le armi, mi dica la verità. Pranzi di gala. Le rivoluzioni? Non sono pranzi di gala. Benissimo, ha citato dunque, pure Lenin. Bravo. Scusi un attimo, professor Becchi, lei è professore di filosofia del diritto dell'Università di Genova, non è l'ultimo dei passanti. Filosofia del diritto, non lei... è l'ultimo degli stronzi, anche se qualcuno, voglio dire, con rispetto... No, professore. Non cominciare subito così ad offendere stronzi. No, ho detto lei, ho detto no. Professore, no, sono chiaro, voglio essere chiaro e non equivocato. Lei, professore, ma darmi dello stronzo? Beh, anche no, lei, anche lei non è che ci va. Al contrario, ho detto professore, siccome lei non è l'ultimo degli stronzi, ho detto il contrario. Siccome lei non è, ripeto, non è l'ultimo degli stronzi. Ma il primo, dici, ma il primo. Ma il primo. No, ma no, neanche il primo. Ho detto che non è. Quindi quello che dice è interessante. Scusate, ma perché... si sente male, non avevo capito. Dimmi. No, scusi, però, professor Becchi, adesso lei pure non è che ci va troppo leggero col linguaggio, non ci va. Non ci... Assolutamente. Ci va giù pesante. Io sono contro il political correct. Non rimproveri a Parenzo di avere dato tutto dello strozzo. Tutto è cancro fino a prova contraria. Come tutto è cancro? Tutto è cancro fino a prova contraria. Il political correct, quelli che vai a trovarti per fare una visita medica e ti dicono che non lo so, c'è qualcosa, dobbiamo vedere, non si sa, vedremo, eccetera. No, e poi è un cancro. Cancro e basta, se è cancro è cancro. Le rivoluzioni non sono... Basta con questo political correct per cui quell'altro vendola si offende per via della vasellina. Ma lasciaglielo dire la vasellina. Beh, insomma, anche... Vabbè. È una vasellina, basta. Vabbè, professor Becchi, però, scusi, uno del PDL, un signore, un consigliere comunale di Vigevano, che dice vendola è viscido come la vasellina che usa, scusi, Non lo so se abbia messo come la vasellina che usa, io ho sentito dire soltanto quello come ha la detto. Vasellina, ma comunque lo stesso, io penso che non dobbiamo fermarci, quando si usano metafore, quando non si va direttamente sull'aggressione verbale, eccetera, il linguaggio deve essere, basta con questa saga del politicamente corretto. E dunque, ci vuole la rivoluzione? Ah, beh, secondo me... Con le armi, con le armi. L'unico modo per uscire da questo... Però la rivoluzione si fa con le armi, professor Becchi, Con quello che c'è, se sono necessarie anche quelle, però c'è anche la possibilità del voto, certo che se vogliono fare una legge elettorale, perché questo è il problema, fatta perché nessuno vinca, si prendono le armi e soltanto uno perda, ditemi un po' com'è l'astrusità da cui stanno pensando, Casini, il cioè è legittimo prendere le armi. Che cos'è il FLI? Il FLI, no, mi ricorda il flick che usava mia nonna in campagna per annientare, scusate, le zanzare, il flick. Poi abbiamo il FLI e l'API di nuovo, che sono le api, non lo so, che stanno discutendo come è possibile fare un sistema elettorale in cui nessuno vinca e soltanto uno perda, ma ve ne rendete conto? Cioè stanno facendo un sistema per che fare? Per affinché nessuno vinca. Sì, ho capito, ma ok, per fregare Grillo. Soltanto uno. L'unico che ha la possibilità di vincere queste elezioni, che naturalmente è il Movimento 5 Stelle. È fuori discussione che se non truccano qualcosa con la legge elettorale, è quello il futuro. E lì comincia la rivoluzione, o continua la rivoluzione, e se fanno... la rivoluzione è cominciata in Sicilia, ragazzi. Però, scusi, professor Becchi, Parenzo sostiene... che cosa volevi dire, Parenzo? No, io dico al professor Becchi, dico con grande serietà, dico, allora, la conseguenza, lei dice, in un contesto come questo, evidentemente si fa la rivoluzione con quello che si ha, quindi evidentemente anche con... con le bastonate ai poliziotti, anche con le armi, questo è quello che lei dice, le no? Le bastonate io le ho viste dalla televisione, per quello che posso aver visto, ho visto 4-5 poliziotti dare delle bastonate anche. A un ragazzo che avrà l'età di mio figlio, dice... che stamattina è andato a manifestare. Scusi professore, lei dice anni, valgono tutti dire, i mezzi. Se mio figlio tornava a casa rotto, non è tornato rotto, e beh, certo che non mi faceva piacere, ecco. Io ho visto quelli atti di violenza, non ho visto camionette saltate eccetera, ecco. Per lei però dire, l'atto di violenza gratuito c'è stato. No, ma scusi professore, non ci siamo capiti. Lei prima diceva, beh, in questo contesto vale tutto, questo ha detto il professore, cioè lei, che ripeto non è l'ultimo dei cosi, perché è così, lei ha detto vale tutto. Io ho detto chiaramente la rivoluzione, cioè certamente ci possono essere sicuramente anche degli episodi di violenza, non mi posso mica nascondere dietro un angolo, è così. Scusi, se Barnard, il professor Barnard, cosa devo fare? Un altro... qui a fare il discorso pacifista? No. Dipende dalle circostanze in cui ci sono. Anche le armi contro, armi contro questo sistema, diciamo. E scusi un attimo, Barnard, Paolo Barnard, ecco un altro, il quale ha detto che un siamo... Un altro. Siamo abbastanza simili, direi. No? Lo so, il professor Barnard dice che Monti è un criminale, che Prodi è ancora peggio, e che vanno praticamente arrestati per crimini contro gli italiani, eccetera, eccetera. Anche lei è d'accordo con questa idea? Ma certamente, io che hanno commesso dei crimini è fuori discussione. L'introduzione dell'euro è stato un crimine, tutto il nostro danno, tutta la nostra situazione attuale in larga parte è determinata. Vabbè, ma Monti, lei... costi della politica, ma lasciamo perdere. Altro che costi della politica, il primo costo fondamentale è stata l'introduzione dell'euro, è quello che ci ha massacrato e che ci continua a massacrare, ed è per questo che ci sta massacrando Monti. Monti è stato messo lì, resterà lì, oppure andrà a finire al Presidente della Repubblica soltanto per salvare una cazzo di moneta. Scusi un attimo, e cosa invece Berlusconi che minaccia di far cadere Monti? Berlusconi non esiste più, Berlusconi è uno zombie, voi prendete ancora sul serio quello che lui dice? No. Ma lui stesso non ha il coraggio di prendersi più sul serio, lui stesso. E voi state dietro a quello che dice Berlusconi. Perché ci divertiamo. Berlusconi è un uomo finito. Ci divertiamo. Deve stare attento, perché se no fa la fine di Craxi, lo mettono in carcere, deve scappare. Ah, deve scappare, dice lei. Ma certo. Magari prima già o poi lo mettono. Con tutti i processi che ha, vuoi dire che prima o poi non trovano il modo di metterglielo in quel posto? Scusi, professor Becchi, perché non si presenta col 5 Stelle lei? Scusa? Perché non si presenta col 5 Stelle in Parlamento? Ma no, loro hanno un sistema, che io sono un po' all'antica, cioè loro ragionano tutto sulla rete, diciamo le... Vabbè, però magari hanno bisogno di un professore universitario. Io sono un simpatizzante, questo credo che lo si sia capito, se posso gli aiuto anche, però io non ho nessuna... Io faccio il professore universitario e basta. Capito, Parenzo? Ora, certamente... Va bene, professore universitario. Professore, però se lei... credo che ci sarà un impegno da parte mia. Loro hanno un modo di lavorare molto diverso dai partiti. Caro il mio Becchi, caro Becchi, se lei pensasse un po' di più a come raddrizzare il legno storto dell'umanità... anziché incitare alla rivolta, forse saremo un po' tutti più tranquilli, professor Becchi. Ma vedi, forse hai ragione, ma io non sto dalla parte di Kant, perché sto dalla parte di Carlo Marx. E questo c'era capito, perché ti consideri un novello Lenin. Ho studiato Kant tantissimo, però è inutile, legno storto, preferisco quell'altra ottica, ecco. Lo sai che cosa mi è dispiaciuto di tutta la manifestazione di oggi? Te lo posso dire francamente? Cosa? Te lo dico, un cartello con scritto di uno vecchio slogan, credo, di una femminista, ma degli anni 60, credo. Sì. Sputiamo su Hegel. Ma io non capisco. Io avrei scritto lì, scusate, ma sputiamo su Monti. Ma come c'è? Ma sputano su Hegel. Ma io non riesco a capire il significato. Cioè lei sputerebbe in faccia a Monti? Lei sputerebbe forse perché era un modo per essere antitedesco. Lei sputerebbe in massa in faccia a Monti? Io se lo avessi di fronte sì, a costo di andare in galera. Perché quella è veramente una... lui, ma ancora di più Prodi, perché ce lo chiede l'Europa. Io quando vedo quella faccia lì, mi sono fatto, sai, questi giochi che ci sono da tirare le freccette, no? Con lui, con quella faccia, ce lo chiede l'Europa, capisci? E che si è fatto? Ogni tanto tira le freccette contro Prodi? Non lo posso soffrire. a casa. Allora chiedo scusa, ho detto che era, non vorrei fosse l'ultimo degli stronzi, perché non lo è l'ultimo, non vorrei. Uno che dice che sputerebbe se ce l'avesse davanti in faccia a Monti e insegna all'università filosofia del diritto, sì. Non è l'ultimo degli stronzi, non è l'ultimo, non si dica mai che è l'ultimo degli stronzi, non lo si dica mai. Non me moleste moschito, non me moleste moschito, non me moleste moschito, why don't you go home? Non me moleste moschito. E siamo qui, Giorgio da Isernia, buonasera. Buonasera a voi. Dica. Niente, io ho deciso di intervenire in merito alla faccenda dei giornalisti, del fatto che possano essere condannati o meno, e volevo dire vada. Allora, io ritengo che innanzitutto sia giusto, che non soltanto questo, ma che i giornalisti troppo spesso non si rendano conto che certe volte scrivere è peggio che dare una bastonata, nel senso che troppe volte il giornalismo si è permesso di etichettare persone e magari a criticare altre senza rendersi conto di quello che stavano facendo. Volevo fare un esempio di quello che è successo oggi, dove i centri sociali di sinistra con i collettivi hanno aggredito un poliziotto in vendi spranghe e i giornali hanno riportato la faccenda come se fossero degli semplici studenti, e invece il blocco studentesco a Roma è stato aggredito e lui ha risposto a mani nude e sono stati etichettati come estremisti di destra. E credo che nel 2012, se uno condanna la violenza, dovrebbe iniziare a condannare la violenza tutta, non soltanto quella da una parte, ecco. Va bene, grazie. Andiamo a Milano. Rolando, buonasera. Rolando, dica. Allora, io sulla questione delle violenze di oggi avrei qualcosa da dire personale, nel senso che le violenze vanno concepite anche rispetto alla situazione che c'è. Facciamo per esempio un esempio. In Siria ci sono violenze terrificanti, ne sta parlando tutto il mondo. Ma in Siria non c'è la democrazia, Qui c'è la democrazia. Certo che c'è la democrazia qui. Anche Assad sostiene che a casa sua c'è la democrazia. Cioè ogni paese a suo modo. No, però scusi un attimo. Il migliore che c'è. Sì, però Rolando, abbia pazienza. Lei non può paragonare le manifestazioni quando ci sono e quando sono spontanee della Siria, e sto parlando della Siria, dai, con quelle dell'Italia. Abbia pazienza, cioè lì c'è un regime, una dittatura. Qui ognuno fa il cazzo che vuole, caro Rolando. Detto in estrema sintesi. Su, dai, non paragoniamo. Io ho capito, però ancora solo una parola. La differenza ovviamente la conosco, non è che non mi accorgo di questo, però io ho l'impressione che comunque in tutti gli stati e anche a casa nostra, lei prima ha usato la parola ognuno pro domo sua, cioè per tutti è così. Anche noi quando ci sarà bisogno magari di qualcosa di più energico, perché qualcosa sta comunque succedendo, nel senso di andare più in basso rispetto ad alcune questioni che sono economiche. No, capito, ma lei di che sta parlando? Io non ho capito di che sta parlando lei. Di che parla? Sto dicendo che se ci sono degli scontri di piazza, io non è che condivido questa cosa, però penso che ci sia una posizione delle persone che sono autorizzate a parlarne, per esempio le radio, le televisioni, i giornalisti, che in quel paese ne parleranno sempre in quel modo. Ma chi l'ha detto? Sono atti di violenza, atti contro la libertà, atti contro tutto. Ma chi l'ha detto? Indipendentemente se poi è giusto o no. Ma scusi Rolando, io non ho capito niente. Andiamo a Paolo da Milano. Non ho capito, cioè, dice che praticamente raccontiamo le cose sempre nel solito modo, cioè dando torto ai manifestanti, ma non è vero, cioè, non è vero, ci sono delle immagini brutte di poliziotti che prendono alle spalle i manifestanti, siamo d'accordo. Il problema non è quello. Qual è la proposta che viene? Perché dicono contro l'austerità, contro le politiche dell'Europa. Ma di che parliamo? Di cosa? Qual è la proposta che viene? Qual è la proposta? Niente, nulla. Paolo da Milano. Io vado ai matti. Mi hanno fatto perdere un'ora di tempo oggi in mezzo al traffico. Vado ai matti. Paolo da Milano. Quello però. Sì, ho capito, mi dà fastidio. Paolo.